Buonasera, buonasera a tutte e benvenute a questa prima ufficiale puntata di Mighty FM sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Potete ascoltare in streaming dal sito radiocittafujiko.it oppure appunto in FM senza nessun problema, si spera, per questa nuova puntata, una puntata molto importante per noi, per me personalmente e anche per delle persone care. E con un po' di trepidazione ci apprestiamo a fare questo speciale monografico più che mai, perché ascolteremo per il 99,99% solo la voce di Chan Marshall, ovvero Cat Power, perché lunedì 5 novembre suonerà all'Estragon per una produzione del Locomotive Club in occasione dell'uscita dopo 6 anni del suo nuovo bellissimo album Wanderer, uscito il 5 ottobre scorso per la Domino Records, e partiamo come sempre con il pezzo di apertura, la title track Wanderer Intro. Oh, wanderer, I've been wondering if your brown eyes still have color. Could I see that night? That night with those hands, that night, oh, galleon ring, with heart, wild heart, you'd sing to me, who's not the lady from the old town, twist of fate would have me sing. In between, wild heart, young man, goddamn, I want to keep. For your goal is ages up for the end of your story. Give my hand to Jesus, and when I'm with you, oh, wonder, I've been wondering. Appena un minuto e 11 secondi di questo pezzo che dall'inizio all'album ed è come un inno, un'ode, una preghiera al wanderer, ovvero al girovago, al vagabondo, in cui lei ha ragione, si mette in questa discendenza, in questo lineage di cantastorie, di musicisti che attraversano la grande America per raccontare le proprie storie con la propria chitarra, e anche perché fa riferimento ad una infanzia abbastanza in movimento, sballottata di qua e di là dalla sua mamma hippie o dal suo papà pianista blues, tra Georgia ed Alabama, una Georgia dove è nata ad Atlanta il 21 gennaio 1972 Charlene Marie Chan Marshall, come tutti la conoscono, è il suo nomignolo, che si è autoaffibbiata a partire dalla prima media. E alla fine, nei primi anni 90, comincia a suonare nella scena di Atlanta come autodidatta, impara a suonare la chitarra da autodidatta a 19 anni. E nel 93 apre per un concerto di Leeds Fair ad Atlanta e viene notata da Steve Shelley, ovvero il batterista dei Sonic Youth, e da Tim Folian, un altro musicista, con cui Chan registrerà i primi 2 album nel dicembre del 94. Nello stesso giorno registrano 20 pezzi in uno scantinato, in uno studio improvvisato a New York, e questi 20 pezzi figureranno nel primo album ufficiale Dear Sir, che uscirà nell'ottobre del 95, da cui appunto ci stiamo ascoltando 2 pezzi, Rockets e The Sleepwalker. As you can. punto ci siamo trovate alla fine ad avere una puntata totalmente monografica, senza i cosiddetti contributi esterni. Io per estensione avrei voluto mettere le giovani voci della scena americana che un po' appunto seguono questa tradizione, avrei voluto suonare Angel Olsen, anche Mitski nei pezzi più diciamo tradizionali, ma soprattutto le giovanissime Phoebe Bridgers, Julian Baker, Lucy Dacus, che adesso sono uscite con un EP di tre pezzi sotto il nome di Boy Genius, anche un po' una presa in giro della predominanza maschile anche nel mondo degli indie. Come anche avrei voluto mettere delle versioni originali di pezzi che lei ha rifatto, in quanto la sua carriera è stata punteggiata, molto più che punteggiata, dalle sue cover, rifacimenti racchiusi in due album, poi anche vari EP, e c'è sempre una cover nei suoi album. Solo The Greatest del 2006 non aveva nessuna cover, e invece in quest'ultimo Wanderer ce n'è una, anche una curiosa a leggerla sulla carta. Siamo passati al secondo pezzo che abbiamo scelto di ascoltare dal debutto di Her Sir del 95, ovvero The Sleepwalker. Dicevamo appunto, per fare questa puntata io mi sono riascoltata tutti i dischi Cat Power e non sono riuscita a fare delle selezioni. Ho fatto dei veri e propri mix anche di tanti pezzi dello stesso disco, che comunque ci serviranno un po' per rinfrescare la memoria, un po' per appunto ovviamente per godere della bellezza della sua musica, e un po' anche per parlarci sopra, parlare soprattutto di questo nuovo album, Wanderer, uscito per la Domino Records dopo un rapporto ultra ventennale con la Matador Records, ma ne parleremo abbondantemente. Mentre questo primo disco nel 95 uscì per la Rant, artista Chad Marshall, che ha dimostrato negli anni, chissà se se lo poteva immaginare quando iniziò la sua carriera appunto nei primi anni 90, ha dimostrato una grandissima determinazione, forza d'animo, tenacia, e comunque alla fine una grandissima sicurezza nella propria artistry, nel suo talento, sua capacità di produrre arte. Quindi grazie all'occhio lungo di Steve Shelley si sposta a New York, e proprio dalla metà, anzi forse da sì, la metà degli anni 90, si affitta una stanza, un appartamento diviso con altre persone nel Village, credo, in This Village, dove tuttora insomma è la sua base d'appoggio quando è a New York, dove ha sempre pagato l'affitto per ogni volta che insomma il lavoro o la vita la porta a New York. E adesso, mentre finisce il primo contributo tratto da Dear Sir, passiamo al secondo pezzo invece di Wanderer. Si chiama In Your Face ed è diciamo un un ritratto di quella che è stata definita la brutta faccia della mascolinità nell'era di Trump, una canzone che parla appunto di quanto l'uomo americano si sente al sicuro, si disinteressi magari della gente che muore di fame per le strade, tanto lui ha i suoi documenti, la sua pistola, i suoi soldi nella cassaforte, è sicuro perché comunque è al di sopra di tutto e non può venire toccato. In your face. You never need your American, you never take what you say seriously. Of things you've got in mind, and when you wait, it's all in vain. You never said you'd do anything you made, excuses for your mind, objective goal. Fa riferimento ad un principio buddista che dice che comunque il proprio karma alla fine si mostra sul viso, insomma, un concetto in comune con Dorian Gray, no? Tutte le brutture, le sozzure, i crimini alla fine venivano, si materializzavano come rughe orrende sul viso. Per un disco Wanderer che appunto viene detto in tutte le quasi 30 recensioni dei media specializzati che sempre andiamo a pescare su Metacritic, per un 7.9 di media di voti, e sempre appunto riferimento a questi arrangiamenti molto scarni, essenziali, d'altra parte il suono insomma dell'inizio, voce chitarra e poi voce pianoforte, a volte gli accordi sono sempre gli stessi, potrebbero essere gli stessi, potrebbero essere qualunque, sono le melodie che le riesce a creare e la sua voce inconfondibile che animano i suoi pezzi. Ma torniamo appunto al secondo album, di quei 20 pezzi registrati in quello scantinato, in questo studio improvvisato con Steve Shelley e Tim Follian nella fine del 94, alcuni pezzi finirono su Dear Sir e altri su Myra Lee, uscito nel marzo del 96. Myra Lee, nome di sua madre, con cui interruppe ogni rapporto dai 16 ai 24 anni, tuttora diciamo, i rapporti con la famiglia di origine non esistono molto, e da questo disco ci ascoltiamo ancora due pezzi. Questo è We All Die, poi sarà seguito da Top Expert. Hey, we all die. come si può sentire, ovviamente, a parte le tinteggiature più folk, blues, e poi anche l'evoluzione, a livello discografico almeno, entrando nei territori del soul, quelli comunque erano gli anni dell'alt rock, come anche l'abbiamo conosciuto noi, primi anni 90, del post grunge, come si può sentire da questo pezzo un po' più teso, un po' più arrabbiato, un po' più con chitarre elettriche e non acustiche. Tra l'altro la prima chitarra che ha avuto Chan adesso era una Silverton, e lei non l'ha toccata per un sacco di tempo, era più appunto l'oggetto simbolico di tutto un mondo che rappresentava, ma poi ha cominciato a suonare, e la chitarra è quella che appare, il manico di una chitarra e mezzo volto di suo figlio Boaz, di 3 anni adesso, che appaiono sulla copertina di The Wanderer. Lei tiene la chitarra col braccio destro e poi sotto c'è il bambino, perché dopo 25 anni di carriera le due cose che sa, le due cose che conosce, le due cose di cui è certa sono la sua musica e suo figlio. Secondo album Myra Lee è uscito per la Smells Like e si fa notare quello stesso anno dalla Matador Records, che nel 96 la fa entrare nel suo, come si dice, roster, e iniziano le registrazioni per un terzo album sempre con Steve Shelley in qualità di produttore e Folian, che uscirà nello stesso anno, ma appunto Myra Lee erano produzioni di fine 94, ma ne parleremo tra un po'. Adesso siamo ancora a Myra Lee e questa è Top Expert. I'm questo inizio, no? Potrebbero essere tante canzoni di Cat Power pubblicate nella sua lunga produzione, anche se gli ultimi album hanno comunque degli spazi molto molto ampi di 6 anni ultimamente, ma si tratta di You Get, terzo pezzo di Wanderer, un pezzo che nel suo contenuto parla molto del tempo, del bisogno del tempo, dell'utilità del tempo, e ricorda appunto Nothing But Time, il pezzo, il duetto con Iggy Pop contenuto in Sun del 2012, un pezzo di oltre 11 minuti. Ma è proprio questo quello che fa Wanderer, riprende tutte le radici folk, le radici blues, in un album che fa poi appunto della vita, dopo che sono successe tante cose, dopo che Chad Marshall si è guadagnata appunto una nomea di performer inaffidabile, di pazza, psicotica, di appunto una che cancella tour su tour, e che scrive sempre in maiuscolo sui social media come Mischeta. Infatti ho scritto poco fa alla mia amica Olivia, dovremmo scrivere un pezzo su Chad Marshall e chiamarlo Una vita in caps lock. Un po' strana la voce di Chan su questo pezzo, molto più quasi miagolata, d'altra parte, come la chiamiamo noi, Gatta Potere, no, Cat Power in realtà è uno pseudonimo che nasce da semplicemente un berretto che ha visto Chan di un camionista dove c'era scritto Cat Diesel Power, quindi Caterpillar, e lei invece ha semplificato con Cat Power, per questo noi la chiamiamo Gatta Potere. Tutta la gente si chiederà se qualche nuovo ascoltatore ce lo siamo guadagnate passando a Radio Fujiko, che è Olivia è la mia partner in crime, la mia migliore amica con cui condividiamo grandissime passioni e tanti pezzi di vita, e con cui appunto condividiamo anche la passione per Cat Power. Infatti avevo un po' di timore perché diciamo che lei potrebbe bacchettarmi in quanto è sempre stata molto più fan di me, ma ripassiamo a questo pezzo, You Get, che sta finendo, che dice: non c'è niente come il tempo per insegnarti dove sei stato, e non c'è niente come il tempo per darti le cose di cui tu puoi avere bisogno, ma tu non hai mai ascoltato il tempo, non hai mai fatto crescere, non hai mai costruito il tempo. E così torniamo a raccontare la lunga carriera di Chad Marshall, a.k.a. Cat Power. Come dicevamo, nel 96 incide per la Matador un album. What would the community think? Da cui adesso ci ascoltiamo 3 pezzi, iniziando da questa, In This Hole. And the thought of God, where should I? What Would the Community Think è stato il primo disco registrato in uno studio professionale. Nei miei appunti a volte mi perdo delle cose. E adesso i nostri mix casalinghi, entrate al secondo pezzo tratto da What Would the Community Think, ovvero Good, Clean, Fun. Dicevo, nei miei appunti pieni di asterischi, sottolineature, freccette e scarabocchi, non ho letto appunto che relativamente a Myra Lee avevo fatto un appunto in cui l'autrice della sua biografia uscita nel 2009 dal titolo Cat Power, A Good Woman, ovvero Elizabeth Goodman, descrive Myra Lee come se fosse stato scritto e registrato al chiaro di luna in una vecchia veranda pericolante nel profondo sud durante una buia notte dell'anima. In realtà sappiamo che non è stata una registrazione di un album, ma forse appunto sono stati scelti dei pezzi per Dear Sir e altri per Myra Lee in modo che fossero più coerenti e che suonassero appunto come degli album. Dicevamo, è registrato What Would the Community Think invece in uno studio professionale a Memphis, dove Steve Shelley suona anche la batteria, e dico, vabbè, ci mancherebbe, è il tuo lavoro. In un disco che unisce blues, alt rock, country e più poi degli inni, come può essere considerata anche Wanderer, come può essere appunto derivato dall'imprinting di essere nata e cresciuta nella Bible Belt. Un disco che contiene anche dei standard blues e due cover, una di Billy Oldham, dei Smog, che era il suo compagno a quell'epoca. E adesso, dopo Good Clean Fun, arriverà uno dei pezzi più famosi da questo disco, New That's the News, che successivamente Chad Marshall ha detto che parla di un aborto avvenuto nel 92, e mentre i nomi Jackson e Jesse che vengono citati nel testo sono quelli dei figli di Paris Smith. Come sempre facciamo sulla nostra pagina Mighty FM Radio, abbiamo postato tutta la videografia che abbiamo potuto rintracciare a partire dalla prima per arrivare all'ultimo, che dobbiamo ancora postare, ma ci stiamo arrivando. No, l'abbiamo già postato in realtà. E questa New Just the News è stato il primo video di un pezzo di Cat Power. Album con dei testi malinconici, un critico ha scritto: ascoltare What Would the Community Think è come guardare una tua amica che sta per impazzire, a volte disturbante ma totalmente sincero. E la biografa Goodman ha scritto: il lavoro più violento, arrabbiato, un'epopea folle, piena di tristezza, senso di colpa e atteggiamento di sfida. Non fu un successo commerciale, ma un album unanimemente lodato dalla critica, e che fu seguito poi nel novembre 96 da un EP di tre pezzi Undercover per la Cover Records, quindi immagino fosse come un episodio, un numero di una collana di uscite dedicata alle cover, tre pezzi, cui uno di Thurston Moore, un altro dei Pavement, e quindi a testimoniare grande amore per le cover fatte in un modo unico, tutto suo. Ma ne parleremo, e adesso ritorniamo a Wanderer con quello che viene considerato, insomma, a parte che al singolo principale è stato il secondo video, dopo che per annunciare l'uscita del disco è stato pubblicato un video per Wanderer Intro, questo vero primo singolo è pubblicato il 15 agosto per l'album che invece è uscito il 5 ottobre, si tratta di un non proprio duetto, ma un pezzo in cui Lana Del Rey fa la corista, raddoppia un po' le voci, ripete un po' alcune parole e parti del testo, e si chiama Woman. And I would take it to the bank and then leave. Yes, I would take it to the bank and then leave. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. Intanto speriamo che chi ci ascolta conosce già la canzone, oppure, come diciamo sempre in trasmissione, noi parliamo sopra i pezzi perché abbiamo delle cose da raccontare, poi ovviamente se uno gradisce la voglia di riascoltarselo se lo riascolta in santa pace, perché è importante parlare di questa canzone e raccontarne un po' la storia. Innanzitutto qualcuno potrebbe pensare che sia un po' strano, no, questa associazione tra Lana Del Rey e Cat Power, invece la storia è che loro si sono incontrate presso la piscina dell'hotel Chateau Marmont, famigerato hotel di Los Angeles, da cui Jean Marshall è stata cacciata una volta perché ha suonato il pianoforte nuda, e poi Lana Del Rey ringrazia Cat Power per la sua musica e per l'ispirazione che sempre le ha dato nei ringraziamenti del suo album Last for Life, e la chiama a suonare e ad aprire i suoi concerti nel tour europeo nella scorsa primavera. E perché è nato questo duetto? Questo era un pezzo che non faceva parte della versione dell'album che Chan ha presentato alla Matador e che è stato rifiutato. Si narra che un executive della Matador le abbia dato una copia di 25 di Adele dicendo: è così che dovrebbe suonare un disco. Questo pezzo comunque non ne faceva parte. Quando poi è passata la Domino Records, ha chiesto all'etichetta se poteva aggiungere questo pezzo, perché non ce l'aveva messo, perché così da solo sembrava appunto un pezzo un po' patetico, no? Lei dice: quando tu stai facendo una protesta, una manifestazione per la strada e tieni il tuo bel cartello, avere qualcuno di fianco a te che magari tiene il suo o ti affianca in questa cosa ti fa sentire molto più sicura. Siamo passati all'altro album, appunto, un album che è stato assolutamente fondamentale, che è tuttora fondamentale per lei e per i suoi fan. Si tratta di Moonpix, uscita nel 98. Abbiamo scelto pezzi forse più famosi, American Flag, perlomeno per me, e Metal Heart. Che ha celebrato quest'anno il suo ventennale e che è stato celebrato suonando ad un concerto alla Sydney Opera House con gli stessi due musicisti australiani dei Dirty Three con cui è stato registrato l'album, che è stato quasi tutto scritto in una notte dopo un incubo allucinatorio avuto da Chan nella fattoria della South Carolina dove stava con Bill Callahan, suo compagno all'epoca. Nell'autunno del 97 quei giorni era sola e tra l'altro un momento in cui aveva già deciso di smettere di fare musica. Canzoni, compresa questa Metal Heart, sono state scritte in una notte folle. Lei dice: mi sono svegliata e c'era qualcuno nel campo dietro la casa. La terra ha cominciato a tremare e spiriti oscuri stavano battendo contro le finestre della mia casa, smashing up proprio con violenza. Mi sono svegliata e c'era un gattino vicino a me, vicino, e ho cominciato a pregare Dio di aiutarmi. Quindi mi sono messa a correre, ho preso la mia chitarra perché stavo cercando di distrarmi da questa cosa, ho acceso le luci e ho cominciato a cantare a Dio e ho registrato tutto questo in un registratore nei successivi 60 minuti. Sentiva questa presenza oltre gli alberi e poi ho sentito una voce che diceva: Chan, vieni a incontrarmi fuori e tutto il passato verrà dimenticato. È molto interessante, non posso leggere tutto quello che racconta riguardo a questa esperienza, ma la potete trovare sulla scheda relativa a Moonpix su Wikipedia. E l'album nasce in seguito ad una sfida, cioè tipo la sfida lanciata da un amico. Lei voleva smettere di fare musica, ha detto no, adesso vediamo se fai un disco. E lei se n'è andata a Melbourne con Mick Turner e Jim White, The Dirty Tree, un disco che viene considerato il suo capolavoro e appunto è stato celebrato con un concerto niente po' di meno che alla Sydney Opera House. E guardando appunto in retrospettiva quest'album, lei dice mi fa sentire molto bene e molto umile il fatto che molte persone mi hanno detto quanto Moonpix è stato importante per loro per ragioni personali, suicidio di un fratello, cose del genere. Per me Moonpix è così elementare nella sua semplicità. Adesso sono sorpresa che la gente mi dice è il tuo disco migliore e sento di essere viva oggi proprio per il fatto che sono stata capace di scrivere quelle canzoni invece del buio, invece di fare altre scelte che fanno altri esseri umani, quindi magari il suicidio. Io ho scelto di scrivere queste canzoni e anche come una cosa che abbiamo postato oggi, io non sapevo da giovane di essere amata, ma forse in fondo la me di allora sapeva di valere qualcosa. E siamo arrivati ad un altro pezzo di Wanderer, si tratta di Horizon, una canzone che parla di legami familiari in cui si rivolge a padre, madre, sorella, fratello. Anche questi appunto dei temi e dei modi di cantare molto tipici, molto vicini appunto al sud degli Stati Uniti, queste canzoni che a volte sono delle preghiere. Mother, I know your face. Father, I still hold your place. Sister, I'm around you. Remember me. Brother, I'm on my way. Queste melodie possono ricordare tante altre canzoni di Wanderer che, come dice l'ultima recensione che ho letto, è un album di musica essenziale, nel senso che è stato essenziale per lei farlo a questo punto della sua esistenza, ma anche della sua carriera, nel senso che comprende tutto ciò che è il suo universo musicale, quindi appunto l'essenza, il distillato puro di ciò che è Cat Power musicalmente, appunto partendo dal blues, dal folk, dal indie rock, neanche tanto, forse la cosa più rock o dance rock che ha fatto è stato Sun, che poi può essere definito anche in tanti altri modi, no? Elettronico. Ecco, si può sentire. Uno degli arrangiamenti di questo disco, di cui lei fondamentalmente fondamentalmente lei è la produttrice, e poi c'era un mixer, una persona che ha mixato l'album. C'è questa aggiunta di autotune, che questo uso dell'autotune a me ricorda tantissimo, anche per il tipo di musica, ricorda tantissimo Bon Iver. E nelle recensioni che ho letto, molti lo odiano, lo considerano un passo falso, proprio una cosa che non ci stava, che non c'era proprio bisogno, e altri invece lo considerano invece un tocco geniale, insomma, che dà molto, aggiunge molto al pezzo. E questa appunto era Horizon. Siamo tornati a percorrere la carriera di Cat Power. Un'altra cosa che volevo dire riguardo a Mompix, è che fu un successo di critica come il disco precedente, ma a questo punto anche di pubblico, quindi le cose si fanno ancora più serie. Ma poi appunto ci colleghiamo con quello che stiamo ascoltando, le cose si fanno più serie, e che appunto all'inizio della carriera Chan non aveva come obiettivo quello di registrare dei dischi, ma solo di suonare, appunto andando in giro con la sua chitarra di città in città, avendo solo il minimo necessario per mangiare e per prendere Greyhound, no? Gli autobus, e non si sentiva appunto a suo agio anche a suonare ancora dei suoi pezzi, ma si sentiva molto più a suo agio a fare delle cover. E io ho fatto un mio pensiero riguardo al suo modo di fare cover. Per esempio, il pezzo che stiamo ascoltando, appunto dall'album The Cover Records, più didascalico di così, che poi è uscito nel 2000, è I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones, per chi non lo conoscesse. And I'm doing this, and I'm signing that, and I'm trying to make some more. Baby, baby, baby, come back, can't you see? On a losing streak. Appunto a quel punto della sua carriera, e magari le interessava fare dei concerti, e semplicemente le bastava perché lei dice: io comunque potevo fare un concerto e guadagnare tanto quanto avrei guadagnato facendo due o tre lavori contemporaneamente. E così, andando in giro a suonare, potevo comunque vedere il mondo, e era comunque un lavoro. Viaggiare, suonare, cercare appunto di fare abbastanza soldi per l'hotel e per l'autobus. Poteva essere libera e suonare tutto quello che volevo suonare, non c'erano regole. E siamo passati ad un'altra cover, questa forse un po' più riconoscibile, è I Found the Reason di Velvet Underground, da Loaded del 70. Tra l'altro Dave Grohl di questo pezzo dice: tutti pensano che insomma la punta di diamante dell'album sia Satisfaction, le sue cover invece per me la preferita è questa, I Found a Reason. Than what came quindi dopo Moon Peaks c'erano delle alte aspettative e quindi Chan aveva difficoltà a condurre una vita normale e quindi appunto si era anche stancato di suonare i suoi pezzi dal vivo e quindi nel 99 fece una serie di show in cui faceva la sonorizzazione live, come si direbbe oggi, del film muto La passione di Giovanna d'Arco del 1928, il capolavoro di Dreyer, e molti pezzi erano delle cover, alcune delle quali poi sono state pubblicate in questo quinto album del 2000, The Covers Record. Ma fu una decisione che non piacque anche allora alla Matador e adesso infatti siamo alla cover contenuta in Wanderer, che è Stay di Rihanna featuring Vicky Echo. And the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Want you to stay round and around and around and around. Anche questo pezzo rifatto totalmente alla sua maniera, tanto che qui si potrebbe attaccare un pezzo di The Greatest. E appunto io ho fatto una considerazione riguardo al suo modo di fare cover. A volte i suoi pezzi originali, anche alcuni che sono di seguito in questo Wanderer, sembrano avere sempre la stessa base, quelle note in minore, quel paio di accordi, potrebbe essere qualsiasi l'accompagnamento alle melodie che canta, alle parole che canta, mentre al contrario con le cover sono le parole quelle che contano, perché le parole sono quelle originali del pezzo, mentre la musica viene completamente stravolta e ricreata e riscritta, non tanto in questo pezzo qua, che ha una storia, che anni e anni fa era all'aeroporto, la andò a prendere suo fidanzato, insomma, dell'epoca, e quando lei sale in macchina c'era questa canzone di Rihanna che stava suonando alla radio e suo compagno, suo fidanzato, dice: ah, that's my girl, ecco la mia ragazza. E pensava, lei, Chan, pensava che lui parlasse di lei, che era appena arrivata e salita in macchina. Quando il pezzo di Rihanna finisce, lui spegne la radio e lei si rende conto che invece lui considerava my girl, that's my girl, ecco la mia ragazza, Rihanna e la sua canzone. Anni dopo lei la risente in un taxi, si mette a piangere, la ascolta con più attenzione, una sera va al karaoke con un amico, cerca quella canzone, la canta e chiede al suo amico: ti dispiace se la canta ancora? E l'ha cantata 16 volte in quella sera. E alla fine è finita. E Wanderer è anche il secondo video che è stato pubblicato 18 settembre. Questo era lo 0,1% extra Cat Power, ovvero invece di mixare la cover con l'originale abbiamo semplicemente sovrapposto alla fine e secondo me è venuta fuori una bella cosa. Ma adesso abbiamo un sacco di tempo per parlare, ma anche per ascoltare in sottofondo come sempre. perché siamo arrivati al 2003 a You Are Free, è stato l'album con cui io personalmente l'ho conosciuta e riascoltando è sicuramente l'album a cui sono più legata, tant'è vero che ho fatto un mix di svariatissimi pezzi da questo album. Dopo I Don't Blame You, adesso stiamo ascoltando Free. Come together. Free. E poi ci sarà Good Woman, e poi Speak For Me, e poi Werewolf, e poi He Wore, e poi Maybe Not, e poi Names, e poi Evolution. Free. Ma finiamo di raccontare le storie che stavamo raccontando prima riguardo a The Cover Records. Dicevamo come Mumpitz avesse alzato le aspettative un po' di tutti, infatti la Matador questa idea di fare un disco di cover non la prese per niente bene, e appunto la Matador voleva capitalizzare sul successo di Mumpitz, e io aggiungo come sta tuttora facendo, in quanto tutti i video di Cat Power, dei dischi, tutto editi dalla Matador sono stati tutti ripubblicati a fine 2017, quando già insomma i rapporti si erano interrotti. Non piacque questa decisione, tanto che non ci fu nessuna campagna promozionale. I can't see you no more. I will miss your answer. Al contrario, per Chan si trattava di un album molto importante, molto personale, ovviamente, perché a sentirlo era come se avesse completamente ricreato questi pezzi, non era un semplice appunto cover, solo ricantate con un piccolo arrangiamento diverso, un proprio stravolto, quindi appunto un lavoro di creazione, e quindi considerò questo atteggiamento da Matador come una mancanza di fiducia. Appunto si narra che il contratto per questo disco, cioè per The Cover Records, fosse stato scritto e firmato su un post-it. E oltre ai pezzi che abbiamo ascoltato, degli Stones e di The Velvet, Bob Dylan, che lei chiama God Dylan, e la versione originale di George Mathis di Wild is the Wind, che è forse più conosciuta, la versione di Bowie contenuta in Station to Station. Pezzo anche di Smoke è un rifacimento di un suo proprio pezzo, ovvero In This Hall, il primo che abbiamo ascoltato da What Would the Community Think? Once I saw him in my Parlare oltre che ascoltare, come stiamo facendo un po', parlare di You Are Free, un disco autoprodotto, cosa molto importante, dove c'è la presenza di un altro professionista, ma solo con il ruolo Adam Casper, solo con il ruolo di, insomma, tecnico del suono, ingegnere. Questo qui è l'unico pezzo di cui fu fatto un video ufficialmente, ovvero He War, mentre in realtà in una DVD che citeremo dopo, in realtà esistevano altri tre corti fatti su pezzi di questo stesso disco, ma li abbiamo trovati. Un album di Your Free che vede la presenza di Dave Grohl, di Eddie Vedder e di Warren Ellis di Dirty Three. Un album che venne registrato molto tempo, non molto tempo in assoluto, ma nel corso di un anno, perché appunto lei e Adam Casper si incontravano quando avevano tempo tra tour e vari impegni lavorativi. Vennero registrate addirittura 40 tracce e poi appunto sono state scremate in una decina, quasi 15 tracce, quindi anche il disco più lungo che ha mai fatto, oltre i 53 minuti. Disco che ebbe delle recensioni ottime, addirittura Pitchfork di un 8.9, e appunto 14 sono state scelte di canzoni per finire l'album, e ovviamente sono due cover, una di Michael Hurley, cantante folk, ora 76enne, parte della scena di Greenwich degli anni 60-70, e una cover di John Lee Hooker, ben più famoso mito del blues. E a questo You Are Free fece seguito un tour mondiale 2003-2004 e fu la prima volta che noi la vedemmo, 17 maggio al Container di Bologna, locale di breve durata, dove il Covo faceva dei concerti. E sì, è vero, l'esperienza di concerto è stata frustrante, è stata snervante. Cat Power si sedeva, iniziava la canzone, si lamentava della luce sparata in faccia, chiedeva ai tecnici di togliere la luce o di cambiare i volumi, iniziava un pezzo, poi cambiava idea, smetteva. E questo mi porta a fare un'altra considerazione sulle reazioni del pubblico, a meno che appunto non siano fan, super fan. Tu ami la musica di un artista i cui demoni, i cui malesseri, la cui depressione produce tanta bellezza in musica, poi ti aspetti che la performance dal vivo sia praticamente la ripetizione di un disco senza nessun difetto all'inizio alla fine, quando è proprio quella stessa vulnerabilità e debolezza e umanità e incasinamento che lei porta dietro, che è appunto quello che crea la musica che tu ami. Detto ciò, un'altra cosa che ho scoperto facendo questa trasmissione è che la scheda di Wikipedia mi dice che ci sono due pezzi Woman e Werewolf, dove ci sono degli arrangiamenti, archi arrangiati da David Campbell. E io dico, allora questo David Campbell, io non è che so proprio tutto, forse lo sapevo e poi l'ho rimosso. David Campbell è uno degli arrangiatori di archi orchestrali o direttori d'orchestra o compositori di colonne sonore più prolifico della storia, probabilmente. Se vedete la sua scheda su Wikipedia, ha composto o comunque diretto l'orchestra per centinaia di colonne sonore di film e ancora di più di album, a partire dal 1972 ha iniziato così Carole King e Jackson Brown, fino a qualsiasi nome possibile immaginabile, dai più alternativi ai più commerciali della scena mondiale. E poi alla fine vedo che ha anche lavorato in molti album di suo figlio Beck. E non sapevo chi era il papà di Beck. Sapevo del nonno, perché era cresciuto col nonno. Non sapevo che suo papà è questo David Campbell, canadese. E niente, siamo arrivati all'ultimo pezzo, bellissimo, sempre dolente, che mi ricorda qualcosa di più vecchio, forse. Pensavo un pezzo di Genesis, mi sono ascoltata dei dischi, non sono riuscita a put my finger on it, come si dice in inglese. È il pezzo conclusivo dell'album Evolution, si sente la voce, ma non è l'unico pezzo, è la voce di Eddie Vedder. Passando il pezzo precedente dell'album The Wanderer che abbiamo sentito, ovvero la cover di Rihanna Stay, è stata anche una interpretazione curiosa, ma forse possibile, forse un po' troppo sdolcinata, come se questa canzone fosse cantata non ad un amante, ma a questa nuova creatura che ha avuto. Che è cresciuta, che è arrivata a sorpresa in realtà, perché Cat Power, lei stava credo in tour in Sudafrica nel 2014, pensava che si trattasse di un ritorno dei sintomi della malattia autoimmune che l'aveva fatta tanto star male nel 2012, invece no, era semplicemente incinta. La Grande Faucheuse. Let me tell you a story about quello che noi chiamiamo il tristo mietitore, ovvero la morte, l'angelo della morte, questo pezzo di Wonder che si chiama Black. Anche questo musicalmente è familiare, questo disco suona come un classico dall'inizio alla fine, ma sono appunto le parole che sono importanti, e questa è la storia di Black. Un ricordo degli anni in cui tanti amici musicisti sono morti per abuso di eroina. Was a good kid when God was looking after ya. Whoa, whoa, whoa. Who'll make it through? How was I to know he would have done this to you? He made his move and I was down all alone. I kept asking to come up for love. E racconta. Adesso è morto, un tempo era un amico, si è fatto tutte le scale di corsa per venire ad aiutarmi, mi ha buttato in una vasca col ghiaccio e mi ha infilato, mi ha fatto mandare giù una lattina di Coca-Cola, quindi sembra quasi appunto stata salvata da una possibile overdose. Mm. How was I to know? smells. Threw me in the bath with the ice and the slab. Can't coke down my throat, almost his whole half is near. First I was amused, close to death ever been. When the white light went away, I knew death was setting in. If I knew, I would tell ya to keep trouble off, I tell ya. You're the next one to get left with this story. That's when you go mad, that's black. Oh, who's not looking at ya? Who'll be a good kid now that I'm looking after ya? Oh, who'll make it through? How was I to know black would have turned from me to you? E finisce Black. Abbiamo accennato prima questa canzone, abbiamo accennato prima questo DVD uscito nel 2004, Speaking for Trees, diretto da Mark Botwick, ripresa continua di quasi due ore di Chan, praticamente statica, che canta e suona la chitarra tra gli alberi. DVD contiene anche appunto tre corti fatti su pezzi di You Are Free, che erano Maybe Not Free e All For You. E poi c'era anche un CD con un pezzo di 18 minuti, Willie the Wilder, ma siamo arrivati appunto, passa il tour, 2006, esce The Greatest, e qui adesso stiamo ascoltando la title track, ovvero il pezzo iniziale. Era un riferimento a Mohamed Ali, infatti c'è una catena con un monile dorato a forma di guantoni. The Greatest, ci ascoltiamo Living Proof, stiamo ascoltando adesso Is My Love, The Moon e Love and Communication. Un album assolutamente soul, R&B, radicato appunto nelle sue radici, terrore del sud degli Stati Uniti, con musicisti di Memphis, è stato a Memphis praticamente con dei turnisti leggendari della scena di Memphis, e con questo disco vinse lo Shortlist Music Prize, un premio che in realtà è durato solo dal 2001 al 2007, che era il premio per il miglior album pubblicato negli Stati Uniti sotto le 500.000 copie, quindi diciamo sempre un po' alternativo. Prima di lei l'ha vinto Sufjan Stevens con Illinois e dopo Feist. Come abbiamo detto, primo disco senza cover, ma invece registrato, creato con questo gruppo di musicisti sotto il nome di Memphis Rhythm Band. Recensioni ottime, molti nuovi fan, forse un patinato, ma la classe, calore e bellezza per me immensi. Da dire di quanto sia vasta anche la presenza di Cat Power e della sua musica nella cosiddetta popular culture, quanto 70 pezzi, i suoi pezzi sono stati usati in film, serie TV, documentari, poi lei stessa è apparsa 23 volte apparizioni e partecipazioni a documentari o late night show dei vari Colbert, Carson Daly, David Letterman, Jules Holland, Jay Leno, Conan O'Brien, quelli che poi appunto vengono raccolti in stagioni in un video, addirittura diretto un cortometraggio del 2010, 42 One Dream Rush, e anche qualche ruolo d'attrice, ricordiamo forse appunto quello più lungo, My Blueberry Nights, tradotto orribilmente in italiano Un bacio romantico, di Wong Kar Wai con Jude Law e Natalie Portman, Nora Jones, protagonista diciamo, dove lei fa la parte di Katia, l'ex russa di Jude Law. Ovviamente The Greatest e Living Proof erano nella stessa colonna sonora di questo film, e poi anche un'apparizione in alcune serie TV. E finisce il mix dedicato a The Greatest e torniamo ad un altro pezzo di The Wanderer. Anche questo è forse l'unico difetto che potrei trovare in questo disco, è che ci sono questi pezzi centrali, quindi Black, Robin Hood e quello dopo, che hanno la stessa anda, sembra un po' indistinti, forse è stato fatto apposta. Questo pezzo si chiama Robin Hood, è un pezzo che parla dell'avidità del mondo degli affari, delle corporation, insomma parla del capitalismo, e forse è anche un piccolo riferimento anche alla Matador. Lei dice, mi dicevano che erano la mia famiglia, invece alla fine mi sono resa conto che ero un prodotto per loro, mentre io pensavo di essere una persona. C'è questo gioco di parole, in realtà è solo l'aggiunta di una lettera che cambia tutto, da Robin Hood, appunto il criminale diciamo virtuoso che rubava i ricchi, toglieva i ricchi per dare ai poveri, invece questo è Robin Hood, ovvero Robin, rubare, derubare, quindi è chiaro. Ma torniamo alla discografia, seconda puntata di album solo di cover nel 2008, chiamato Jukebox, che contiene anche un rifacimento della propria Metal Heart da Moonpigs, con dei musicisti vari che invece sono stati riuniti sotto il nome di Dirty Delta Blues Band, e che vede appunto pezzi di Liza Minnelli come questa New York che stiamo ascoltando. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be. Ma anche James Brown, ancora God Dylan, Billie Holiday, Janis Joplin, Joni Mitchell. E nello stesso anno esce un altro EP ancora di outtakes dalle sessioni di Jukebox, dal titolo Dark End of the Street, dal titolo della canzone di Aretha Franklin che avremmo voluto mettere in originale. Si trattava di 6 pezzi. Si tratta. Tra l'altro, alla morte di Aretha Franklin, Kat ha postato un tweet di amore sterminato per lei, ma questo EP conteneva anche pezzi di Otis Redding e John Fogerty, e poi nel 2008-2009 partecipa a diversi altri progetti o featuring in album di altri artisti. Per esempio registra Amazing Grace in Dark Was the Night, la compilation della Red Hot Organization, un'organizzazione che spinge insomma per la consapevolezza riguardo a questioni relative a HIV e AIDS, unisce una pubblicazione, un album, Dark Was the Night, da cui spessissimo noi abbiamo attinto. Lonely di Janis Joplin. Cominciamo anche un po' a parlare delle recensioni che ha ricevuto Wanderer. Abbiamo detto 79 su 100, un 9, 13, 8, 6, 7, 2, 6, qualcosa in mezzo, una sola insufficienza da parte di AV Club, che ha dato un 5.8 dicendo troppo semplice e monotono, quindi poco forte. Poi No Ripcord 6, è un peccato che la musica sia così scarna, avrebbe potuto trovare un modo più coinvolgente per presentare le sue acute e taglienti osservazioni. Ad ogni modo Chan riesce sempre a suonare come nessun altro, anche quando rimane attaccato ad una formula super collaudata, e riesce a dire tanto con poco, però alla fine rimangono tanti spazi vuoti quando invece ci sarebbero ancora tante altre storie da raccontare. American Songwriter 7, Wanderer è un intimo e sfaccettato riflesso del suo carattere complesso, spesso pezzi inscrutabili che richiedono diversi ascolti, ma l'approccio profondamente introspettivo merita il tempo necessario per capire questo disco. Drowning Sound 7, anche se è un ritorno a voce e chitarra come all'inizio, le sfumature e la raffinatezza fanno di Wanderer qualcosa che non ha mai fatto prima. Slant Magazine 7, vulnerabilità che tende alla malinconia ma che è anche trionfante e risoluta. Pop Matters 7, autenticità e individualità sono sempre stato il suo pilastro, album profondamente introspettivo e personale, spoglio ma potente, integrità artistica. Marshall e Del Rey riflettono il bisogno intergenerazionale delle donne di sostenere le altre donne. Ho letto appunto in un'intervista a Stereo Gam che sia lei che c'è Marshall, insomma, dicono cupe verità, soprattutto Lana Del Rey, cupa verità con Unapologetic Femininity, ovvero con una femminilità, un modo di essere femminile che non ha niente da giustificare, non si deve scusare di niente. E poi Stay, come appunto cantata la creatura nel grembo, ma in realtà lei ha iniziato a lavorare a questo disco quando già Boaz aveva 3 mesi, già quando aveva 2 mesi lei aveva ripreso ad andare in tour e era andata in tour fino a quando era gravida di 7 mesi. E finisce Woman Left Lonely, la cover di Janis Joplin contenuta in Jukebox, e torniamo a un altro pezzo di Wanderer di cui stiamo leggendo un po' le recensioni. Si tratta di Nothing Really Matters. Ecco, appunto, ci sono questi 3 pezzi, dopo Stay, Black, Robin Hood e Nothing Really Matters, che hanno appunto questo inizio, questi 2 accordi così riconoscibili, ma le parole sono importanti. There's no subtle even with what's left, all the gifts, but outside it's like nothing. Forse questo è il pezzo forse più meno coinvolgente dell'album per me. Ma finiamo di dire appunto del riflesso del cinema, della televisione, della cultura pop, della musica Cat Power, da Before Vendetta, New Rose Hotel di Abel Ferrara, Juno di Jason Reitman, e come attrice ha anche avuto un ruolo in un film, si chiama American Widow, del 2009, su 9 donne in occasione dell'11 settembre. E oltre a ciò appunto una quindicina di collaborazioni a livello musicale, guest appearances, a partire da 4 pezzi, già prestissimo nel 95 nell'album Pass O2, The God Is My Co-Pilot, poi Dirty 3 ovviamente, ma anche Faithless curiosamente, e poi nella compilation Gainsbourg Revisited ha fatto questa, il duetto della famosa Je t'aime moi non plus con Karen Elson, che è cantante ma anche modella, anzi modella ma poi anche cantautrice. Che appunto ho scoperto anche questo, Karen Elson, cantautrice, supermodel e anche ex moglie di Jack White, e ovviamente non lo sapevo. Ma appunto Nothing Really Matters. But outside, ma anche featuring in album di Yoko Ono, 2 pezzi Modern Guilt di Beck, sempre il 2008, lo stesso anno nell'album di Maria Faithful, fino all'ultimo del 2016 nell'album di John Doe, ovvero il fondatore dei Los Angelini X, la prima punk band americana. E poi anche 2 pezzi in Ibifornia di Cassius, anche questo se uno non conosce la storia di questo album, che casualmente è arrivato a questo punto, ovvero Sun, potrebbe trovare strana, perché canta nell'album di Cassius. E Philip Starr di Cassius è stato chiamato da Chan per lavorare a questo album, che è Sun del 2012, quindi appunto da 4 anni da Jukebox. E stiamo ascoltando il primo pezzo che ci esaltò tantissimissimo, ovvero Ruin. Cose più pop che ha fatto, ma anche con la sua nuova immagine, capello corto, platinato, ha un sacco di power, cioè empowered parecchio. In realtà il lavoro per questo album era già iniziato subito dopo The Greatest, che comunque insomma c'erano già stati problemi quando è uscito The Greatest, in quanto si narra che lei abbia avuto uno psychotic break, ovvero un crollo psicotico, che è finita in ospedale, anche lì concerti cancellati, e che poi ha dovuto cancellare anche, e poi ha detto che praticamente era, dopo il ricovero, era praticamente povera, in bancarotta, e che gli era stata, come si dice, casa ipotecata, che è stato foreclosure, come si chiama appunto quando ti prendono la casa, e che non aveva pagato le tasse. E per fare però il suo disco, questo disco, Sanna ha detto vaffanculo, questo me lo pago da sola, ha trovato i soldi, in realtà i soldi che aveva messo via per la pensione, e ha cominciato a registrare a Malibu. E poi invece diciamo che si è un po' persa via, perché viveva appunto a Los Angeles con il suo nuovo compagno Giovanni Ribisi, ovvero il cognato di Beck, anche lì è famosissimo scientologo. Poi dopo la storia finisce con Ribisi, lei sta malissimo. E anche per le pressioni della Matador, che voleva un hit, voleva un disco di successo, lei ha cominciato a sperimentare con sintetizzatori, con drum machine, appunto con questi suoni elettronici, che però a noi ci sono piaciuti molto e sono piaciuti tanto al pubblico, qua, tanto che l'album ha debuttato al 10° posto nella top 10 di Billboard, e quindi è veramente una cosa storica nel mercato americano, e anche al 2° posto invece in classifiche di Billboard legate invece ai dischi della musica alternativa e indipendente, che ovviamente ci sta. E quindi Chan ha chiamato Philip Starr di Cassius, perché aveva sentito il lavoro che aveva fatto nell'album dei Beastie Boys dell'epoca, e lui praticamente si è trasferito nello studio di registrazione in Francia di Philip Starr, dove lui ha lavorato gratis finché appunto non è stato registrato il disco, uscito nel settembre, credo, del 2012. Abbiamo sentito prima la grandiosa Manhattan, quell'inizio assolutamente inconfondibile, secondo me una delle cose più belle che ha fatto, a livello di atmosfera, di freschezza, di apertura. E questo invece è Peace and Love. Quindi dicevamo, disco audace, un album, anzi è stato definito da Consequence of Sound un album pop appassionato di musica elettronica, filtrato però attraverso l'anima, la sensibilità di una cantautrice, quindi dance rock, group power. Appunto il duetto con il hip hop, 11 minuti, e questo poi ha portato il lavoro con Philip Starr a cantare in due pezzi l'album I Biforni, addirittura un in duetto con Pharrell Williams. E torniamo a Wanderer con un pezzo dal titolo spagnolo, Me Voy, che ha anche un po' di suono di, che musicalmente diciamo sono Polvo Coder in Horizon, la chitarra spagnola qui, che insomma sono un po' dei tocchi un po' più, come si dice, esotici rispetto al suono classico di Cat Power. Me voy, good is come. Appunto, per finire, riguarda il break up con Giovanni Ribisi, e dice: mi sono tagliato i capelli corti 3 giorni dopo, ho preso un aereo per la Francia e ho finito questa merda. Mi era molto finito il lavoro sull'album. I am going. tornando alle recensioni. The 4-5, credo sempre 7 o 8. Confessione, dichiarazione di indipendenza, profonda determinazione e forza che prende atto di un passato tormentato, un disco di speranza e paura. E io ho scritto una nota: non capisco il continuo riferimento alla differenza, abbandono dei suoni di Sun, come se chi scrive non sapesse cos'è successo in questi 6 anni e dovrebbe saperlo. Appunto, lode in questa recensione a Horizon, che altrove invece viene criticata, cioè l'uso del vocoder. E quindi un disco che testimonia di longevità, buon gusto e maturità. Poi Pitchfork 7.4 dice di Stage a Marshall, è capace di riarrangiare una canzone solo dandole un'occhiata veloce. Chan e Lana condividono una stanca rassegnazione, la determinazione dei sopravvissuti, e Woman, ripetuto in tante sfumature, sfida, dolore, orgoglio, calore e urgenza. Consequence of Sound 7.5, Wanderer, Chan Marshall canta soprattutto a se stessa, ma invita anche la solidarietà femminile, un'artista matura che cavalca le onde della sua turbolenta esperienza. Clash Magazine 8, Wanderer è un'ode all'epopea americana, alle strade polverose, ai veicoli arrugginiti, alle luci tremolanti di bar dimenticati, una rassegna, una vetrina, uno showcase, insomma, della sua eredità e perdurante vitalità. Uno dice, ma come parli di Sun e non ci metti uno dei pezzi di punta, anche video, ovvero Cherokee? Infatti eccolo, abbiamo dedicato uno spazio a sé perché ci abbiamo attaccato il remix, che anche questo suonava una cosa strana, no? Il remix un po' ambient, così dilatato, di Nicholas Jaar, sarà stata una scelta commerciale per acchiappare altre fette di pubblico della Matador, oppure c'è un rapporto, boh, magari personale, tra Chan e Nicholas Jaar, non lo so. Appunto, cosa succede? Il giorno in cui esce Sun, il giorno in cui vengono comunque raggiunti dei traguardi, anche superati dei record per questo successo commerciale, le dice proprio il giorno in cui è uscito Sun, io stavo quasi per morire, ero in ospedale, non sapevano cosa avesse, e i dottori hanno detto che avrebbero indotto il coma per salvare i suoi polmoni, e appunto poi si è scoperto che soffriva di un angioedema, malattia ereditaria, un disordine immunitario che causa appunto il gonfiore, il rigonfiamento del viso, della gola, della lingua. Infatti in queste condizioni venne ricoverata 8 volte, e questo anche l'ha portata a cancellare, con anche nostra grande sofferenza e dolore, il suo tour europeo, perché appunto si era indebitata per farla, per portare questo gorilla gigante che voleva portare in scena. E comunque dopo Sun nel 2013 appare anche in uno spot natalizio della Apple, dove canta Have Yourself a Merry Little Christmas. Appunto nel 2014 si rende conto di essere incinta, e nel 2015 nasce Boaz. All'inizio non viene anche detto, non ha ancora detto chi è il padre, ma una relazione durata poco, dice no, una grande persona, un grande artista. relazione durata poco, e all'inizio non ha detto neanche il genere del bambino né il nome, si chiama Boaz. Appunto, nel 2013 ancora ricadute, esaurimenti fisici e malattie, e quindi una sensazione di essere proprio finita come musicista, non come persona, ma come artista, come progetto. Cat Power, e invece poi si trasferisce a Miami Beach, affitta una casa, tira fuori tutti i suoi equipaggiamento musicale nei vari storage, magazzini in giro, si mette a lavorare al disco, appunto anche questo autoprodotto, va in tour fino a 7 mesi di gravidanza, prepara la casa per la nascita del bambino, ci fa nella casa un piccolo studio di registrazione dove l'ingegnere del suono dalla Francia, arrivato dalla Francia, dorme nella stanza degli ospiti, e poi partorisce e siamo alla fine. Wanderer Exit. Tante altre cose avremmo voluto dire, i consigli che gli ha dato Patti Smith, di la tua verità perché non verrai mai licenziata dalla tua stessa corporation, e leggere ancora le tante cose belle che sono state dette su questo disco, voti alti, disco di continua determinazione, sfida nei confronti di chi la critica, e tutti i problemi anche mentali e fisici, e invece questo senso ritrovato di calma e forza, semplice, meravigliosamente costruito, sempre emotivamente coinvolgente. Rolling Stone addirittura dice, cioè Marshall possiede l'autorità di una blueswoman stagionata, DIY, una bussola fondamentale per trovare la strada nell'oscurità, l'enemy, folk blues che combina il minimalismo degli inizi con il soul mielato di The Greatest. Un artista che ha una sicurezza tale, un irriducibile senso di sé, tanto da reinterpretare e rimmaginare un pezzo di Rihanna come ha fatto, quindi un album che è un quieto trionfo, poi The Line of Best Fit, semplicemente un altro gran disco in una grande, una lunga linea di dischi meravigliosi, forse adesso è meno ferita, è un passo in qualcosa di fresco, se non una rinascita creativa, un rinnovamento creativo. E poi Musical Image, il lavoro di un artista ora totalmente a suo agio, nella propria pelle, all'apice della sua potenza creativa, che ha totale controllo. E finiamo con un altro pezzo di quello in cui abbiamo aperto, ovvero la versione finalmente originale dell'Inno alla Gioia, Andy Freud, con testo di Schiller, musica di Beethoven, sinfonia numero 9, nell'edizione del 74 delle orchestre e dei cori tra Lipsia e Dresda e Berlino. Finiamo di dire Fast Magazine 8.7 e All Music voto più alto 9, che dice che gli album di Cat Power sono così poco frequenti che ognuno è un evento, e infatti i 6 anni da Sun sono stati pieni di eventi per lei, malattia, maternità, cambio di etichetta, e fanno, dice Marshall, veramente una donna inarrestabile, e noi non vediamo l'ora di vederla insieme a tantissimi altri amici il 5 novembre, lunedì, all'Estragon di Bologna, una produzione Locomotive. Ciao da Claudia Mighty Mau.